E buonasera ed eccoci qui dopo una lunga pausa estiva per noi, Angelo e Carla, e siamo di nuovo qui in studio ai colori dell'anima qui a Radio Alma e diamo voce a Carla. Carla, ci sei? Buonasera a tutti, ben ritrovati. Beh, ho atteso questo momento con impazienza per 2 mesi, finalmente ci siamo. Il 24 settembre è arrivato. Grazie a tutti coloro che sono in ascolto, grazie a coloro, i nostri ospiti che vi presenteremo più tardi, grazie a Giampaolo che è virtualmente con noi. Voi sapete benissimo che da qualche mese Giampaolo si è aggiunto alla nostra trasmissione, impreziosendola enormemente, e oggi anche a distanza lui è ancora in Sicilia, non proprio in vacanza, ma è ancora in Italia, uno dei pochi fortunati, e ha scelto di dedicarci un po' di tempo stasera anche a distanza, quindi faremo un collegamento più tardi. Quindi un bacione Giampaolo, grazie di essere lì in nostro ascolto. Ciao. È arrivato il momento di dare qualche informazione per contattarci. Innanzitutto noi siamo su Radio Alma 101.9 FM, siamo in diretta da Bruxelles, esattamente da Saint-Gilles, e per chi volesse chiamarci il nostro numero fisso è lo 02 345 26 56 e per inviarci un messaggio, Angelo? Se mandate dall'Italia è 00 32 471 40 78 04. Ripeto che è 00 32 471 40 78 04. Ricordiamo inoltre che c'è la nostra pagina Facebook a www.facebook.com/angeloecarla, dove potete interagire con noi in diretta e sapere seduta stante le nostre, diciamo, reazioni o commentare le nostre, diciamo, dicerie qui in radio. Ebbene sì, ragazzi, siamo tornati. Sappiamo che all'ascolto ci sono tanti tanti amici, speriamo anche qualche persona nuova. Ebbene, questa sera, come Carla dirà e annuncerà, il tema di questa sera è molto molto molto scottante. Infatti gli lascio la parola perché già mi ha fatto un cenno esagerato. Stai zitto, io me ne ritorno qui in regia e vi saluto a tra poco. Eh sì, mi vuoi togliere questo privilegio di annunciare ai nostri ascoltatori il tema di oggi. Qui il microfono è caldo e sto per annunciarvelo. Beh, Marone che calore! Italia, Bruxelles, effetto ritorno! Eh sì, siamo qui, siamo tornati, siamo, un effetto è chiaramente nella mia voce, quindi mi dispiace per questa voce un po' super attappata, e beh, l'effetto è diciamo riassunto in questo suono soave della mia voce, molto chiara e limpida, ossia dei 13 gradi che ci sono all'esterno qui a Bruxelles e che mi hanno scioccato, compreso di tosse eccetera. I sintomi sono vari ed eventuali, questo è un po' il riassunto dell'effetto Bruxelles, Italia-Bruxelles, effetto ritorno personali. Ma stasera vorremmo parlare dell'effetto che ritornare a Bruxelles, o per chi ci ascolta dall'Italia, ritornare alla propria vita quotidiana, che sia anche nella stessa città nella quale vivono, hanno avuto su di voi. Quindi veramente vogliamo toccare tutti qual è stato l'effetto del ritorno alla vita quotidiana, lavorativa, da studente, da disoccupato, ha avuto su di voi. E colgo l'occasione per è fare... palese l'effetto che ha fatto su di te, quindi... l'ho appena detto, Angelo, ti sei distratto. Diciamolo. Noi qui in regia abbiamo tante cose da fare. Ecco, è vero. Tra l'altro scegli della buona musica, mi raccomando, Angelo. Stai preparando la buona musica? È già stato fatto, benissimo. Ebbene, quindi, per chi è ritornato a Bruxelles, chi è ritornato nella sua città natale, che sia la stessa dove andate in vacanza, ma si è rimesso in un nuovo ritmo, che è quello del lavoro, che è quella della ricerca di un lavoro, che è quella di una nulla facenza quotidiana, quali sono stati gli effetti? È settembre, l'autunno è già iniziato da 3 giorni e noi aspettiamo veramente i vostri commenti e sulla pagina Facebook e tramite messaggio sul cellulare di Angelo, sul numero e o ancora sul numero fisso di Radio Alma. Quindi veramente fateci sentire. Hai detto che il mio cellulare personale, no, beh, benissimo, grazie ragazzi. Adesso tutto il mondo sa che allo 0032 471 40 78 04 potete raggiungermi a tutte le ore. Quindi vai, inviate messaggi, inviate. Benissimo, mi raccomando, la notte soprattutto, perché a volte dimentica di spegnerlo. Quindi come riprenderci da questa gaffa? Riprendiamo proprio, parlavamo di tempo, e io riprenderei con questo brano che si intitola La sartoria del tempo, della Angelo Gregorio Band. La sartoria del tempo dell'Angelo Gregorio Band è la canzone che avete appena sentito. Qui siamo ai Colori dell'Anima su Radio Alma, siamo a Bruxelles, siamo sui 101.9 FM. Ebbene sì, 101.9 FM, a voi che siete in macchina magari nel traffico aspettando il semaforo verde, sì, siete sui 101.9. Informazione da ricordare per le vostre serate, i vostri percorsi. Sì, a me piace parlare agli automobilisti, cioè è una cosa che io ho sempre sognato, parlare a un automobilista che sta da solo nella macchina e magari sta facendo Italia-Bruxelles. No, se sta facendo Italia-Bruxelles non ci può sentire perché è ancora in Italia. Vabbè, ma vuol dire che è arrivato già in Belgio. Ok. Allora, di cosa parliamo stasera? Abbiamo annunciato il tema qualche minuto fa, e cioè appunto di Italia, Bruxelles, effetto ritorno. C'è chi ha il raffreddore grazie a questo ritorno, chi ha la tosse, chi è depresso, chi cerca motivazione per svegliarsi la mattina e andare a lavorare, ed è di tutto questo che parleremo e tanto tanto altro ancora stasera dalle 21 alle 22 con Angelo Carla in collegamento speciale aerospaziale con Giampaolo. E infatti facciamo appello proprio a voi internauti, telenauti, dovunque voi navigate. Siamo sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla, e potete raggiungerci, inviarci dei SMS su 0032 471 40 78 04 oppure telefonarci allo 02 345 26 56. E infatti leggiamo il primo messaggio che ci arriva sulla nostra pagina Facebook da Raffaella Palombella. Carla, la tua voce attappata è più deliziosa del solito. Ciao Raffaella. Ciao Raffaella, grazie di essere nel nostro ascolto, e facci sapere come hai vissuto il tuo ritorno a, non a Bruxelles, sappiamo bene, ma il ritorno alla tua vita quotidiana. E infatti dobbiamo anche dire che la vita quotidiana, infatti il nostro Giampaolo è ancora in Italia, ma non è il suo ritmo di vita quotidiana. Io sto cercando di contattarlo ma non mi risponde. Adesso più in là proveremo a contattarlo, perché è incredibile, ormai è in Italia da mesi e mesi. Chissà questo effetto ritorno, questo effetto ritorno per Giampaolo cosa comporterà. Ma Carla, tu che sei psicologa, cosa comporta questo magari ritornare alla routine quotidiana per una persona che è stata magari per un po' di tempo in vacanza? Dai, diciamo che generalizzare sarebbe stupido e sarebbe banale, però ovviamente le vacanze sono un momento che ci scegliamo più o meno, tranne se costretti da altre cose, ma diciamo che ognuno sceglie la propria vacanza. C'è chi preferisce il relax, la montagna, la campagna, chi invece preferisce visite culturali, 50 musei in un giorno, chi preferisce stare, non so, al mare, appunto, quindi non in attività, ma piuttosto a riflettere, a riposarsi, a non fare niente. Ma in realtà è proprio di questo non fare niente che spesso... di cui spesso abbiamo bisogno. Sempre di più occupiamo le nostre vite da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire, e spesso chi ha figli mi racconta che li occupa lo stesso tempo, senza mai spegnere questa televisione, avere modo di veramente di non fare niente. Adesso che si fa? Ma non lo so, inventatelo. E lo stesso forse anche noi ci prendiamo poco sul serio nel nostro diritto a riflettere, a non fare niente, a guardare il soffitto. E chissà, forse c'è chi nel momento di riflessione, nel momento di vuoto si vede inondare di pensieri eccetera, e per cui si rimette in attività, e poi arriva un bel momento in cui ci sono le vacanze e quindi anche lì si rioccuperà con nuove vacanze, sempre in attività e sempre senza pensare. Però insomma sarebbe anche bello avere un momento di di stop e di riflessione, però beh, questo è un pensiero molto mio personale, non in quanto psicologa, ma in quanto Carla. Beh, penso che ci vorrebbe anche un momento di vacanza ferma, calma e il ritorno alla vita quotidiana, il lavoro, beh, questo c'è chi dice che è ancora più scioccante di quando si è finito l'anno e si prendono le vacanze, perché c'è questo rimettersi in una vita di doveri, di orari, di corse, orari da rispettare, insomma, è pesante, pesante. Però c'è anche fortunatamente chi il proprio lavoro lo ama e chi quindi va al lavoro con piacere, perché ama il proprio lavoro, si dedica a questo lavoro e insomma la cosa diventa un pochino meno pesante, però niente, rimane comunque un cambiamento scioccante. La cosa pesante, cambiamento scioccante. Infatti sono veramente delle belle parole quelle che stai utilizzando, e penso che ogni ascoltatore all'ascolto adesso sia con le lacrime, con un bicchiere di vino, annegando la propria disperazione nell'alcol. Quindi grazie del tuo consiglio psicologico. Non era psicologico. No, vabbè, no. Comunque grazie mille. E io sono curioso di andare a pescare cosa sta facendo il nostro inviato Giampaolo, e infatti adesso chiudo la linea in studio e venite qui con me in regia, tra questi luci, questi pulsanti e cursori che si alza e si abbassano, e cerchiamo di metterci in contatto con la Sicilia, e vediamo un po' che cosa succede, e vediamo se riusciamo a parlare con Giampaolo, che sono mesi che non lo vediamo. Giampaolo? Giampaolo, ci sei? Sono delle arancine. Vanille ne ha fatto solo una. Oma, aspetta un minuto. È pronto per mangiare, dai, vieni. Aspetta, sto bene, ma scusa, quante arancine hai fatto? Quante arancine? Basta. Giampaolo, io ho mal di stomaco con tutte queste arancine. Io pensavo, devo mantenere a testa. Devo studiare, mi devo mantenere. Giampaolo, 10 arancine. Ma scusa Rosa, sto povero ragazzo, stressato. Studia dalla mattina alla sera. Io stasera ho portato due belle costolette di maiale, suino dei nebro, del nero, quello che fa il nebro, è bello, è fatto proprio. Faccio due belle costicello caruso, dai, che ho bisogno. Giampaolo, pronto Giampaolo, D'Angelo, ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Alma. Buonasera, ti abbiamo disturbato? No, assolutamente, stavo aspettando il vostro collegamento. Ah, benissimo, perché abbiamo sentito arancine, costolette, non vorremmo averti disturbato. No, c'era mia mamma che stava preparando così una cenetta leggera da fine estate, così per non pregiudicare il mio studio. Ho capito, bene, allora Giampaolo, io mi devo un po' riprendere, perché questo collegamento è stato proprio incredibile. Buon appetito se state mangiando e niente. Abbiamo finito. Ah, ok, allora un saluto va anche. Come procede? Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ciao Giampaolo. Già, ti salutano tutti in studio, ti salutano proprio tutti, come tu ben sai sei stato qui alla radio, quindi posso solo io interloquire con te. Infatti le persone, se vogliono venire a fare qualche domanda, devono venire qui in regia, e procede tutto benissimo. Stavamo parlando di un tema che eri all'ascolto, ma penso proprio di no, tra le arancine e le costolette di maiale penso proprio che non eri all'ascolto, ma comunque parlavamo di Italia-Bruxelles effetto ritorno. Tu che sei in Italia in questo momento, come immagini questo ritorno? Anche se so che è una domanda un po' difficile, perché tu adesso stai in Italia per una ragione, non è che stai in Italia per mangiare le arancine, le costolette, per andare ancora a mare, perché sappiamo che fa bel tempo ancora, ma sei in Italia, infatti. Sei in Italia per studiare, questo lo diremo in seguito, avremo modo di parlarne. Come puoi dirci tu, che stai da un parecchio tempo adesso in Italia, come immagini questo tuo ritorno a Bruxelles? Ma guarda Angelo, io innanzitutto immagino questo ritorno a Bruxelles abbastanza traumatico, visto che qua l'estate ha fatto finta di andare via, ma poi è tornata prepotente. Oggi in Sicilia in alcuni posti si sono toccati 42 gradi. e quindi immagino che le temperature sono completamente diverse da quelle che voi avete già trovato lì a Bruxelles. Sì, assolutamente. Oggi c'erano 8 gradi, pioveva e abbiamo sia io che Carla il raffreddore, quindi... No, oggi c'è stata un'afa terribile. Io ancora penso poco al mio ritorno, perché come sapete fra pochi giorni ho un esame importante, quindi sono sommerso dai libri, a parte che dalle arancine e dalle melanzane, e quindi per adesso diciamo che sono concentrato su questa cosa. Dopodiché immagino di rientrare a Bruxelles, e comunque dopo diversi mesi in Sicilia sarà dura rivestirsi, ricoprirsi, riprendere un po' tutti i cappotti, le sciarpe, i cappelli e via discorrendo. Però è vero anche che a un certo punto viene anche un po' la voglia di riprendere le vecchie abitudini, la vita di tutti i giorni e di uscire un po' da questa lunga vacanza un po' forzata. Dai, ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Io ne farei 7, 9, 10 esami. Non sono credibile. C'è Carla qui che ti vuole fare un'altra domanda. Sì, no, ciao Carla! Domanda, c'è una dimostrazione... umana, cioè io che sono contentissima di aver fatto l'esame di Stato che mi ha consentito di tornare 4 volte in Italia a fare gli esami, quindi vai Giampaolo, goditela. Eh sì, ma devo dire questo, che comunque la fortuna di abitare in Sicilia mi ha permesso sì di passare le giornate estive a studiare, ma consentendomi anche di andare a mare, questo bisogna dirlo, sono riuscito ad andare a mare quasi tutti i giorni. Mamma mia, Giampaolo, è che ci stai facendo proprio sognare in questo momento. Quindi immagino che sei super nero, noi invece ci stiamo squamando. Sei ancora abbronzato? E Giampaolo, forse abbiamo qualche problema con Giampaolo. E infatti vedo che non risponde più. Beh, sarà stato il troppo sole, ha preso un colpo di sole, oppure un'arancina della mamma che gli è arrivata di traverso dietro alla nuca. E cercheremo di ristabilire il contatto con Giampaolo. E nel frattempo Carla mi chiede la parola, io gliela dono. E volevo approfittare di questo collegamento virtuale con la Sicilia per ringraziare tutti coloro che ci hanno accolto appunto in Sicilia, a Tusa, tutti gli amici che abbiamo conosciuto e che ci hanno accolto super bene, che sono sicura che saranno all'ascolto stasera di Radio Alma. Veramente grazie mille, perché sono un popolo veramente caldo, accogliente. Vi invito tutti veramente ad andare in Sicilia a fare una settimana, non c'è bastata, ci vorrebbero 7, 8, 9, 10 mesi, però quindi vi invito regolarmente ad andare in Sicilia e per quanto riguarda le arancine, così lancio lì una chicca che abbiamo imparato io e Angelo, che l'arancino cambia di sesso in funzione alla città nella quale vi trovate. A Palermo abbiamo l'arancina femmina e a Messina l'arancino, così mi aveva colpito, l'ho voluta dire ai nostri ascoltatori. Ed è proprio sull'arancina, ricordandomi di Palermo, che non posso non salutare colei che è in linea in questo momento, Antonella Gangemi. Ciao Antonella. Ciao Antonella. Un abbraccio forte. E vogliamo anche salutare Martino Valentino che ha scritto su una foto che abbiamo postato, ha scritto: vai Elena e Michè, come siete belli, perché noi abbiamo postato delle foto sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla. Quindi grazie mille a voi ascoltatori, siete sempre qui sui 101.9 FM e questa è Carla. E infatti finalmente Valentino Martino sentirai la voce di Elena e Michelangelo tra poco, quindi ci rivedremo qui tra poco, sempre per parlare delle vacanze e del rientro a Bruxelles, ma questa volta vista da un'altra angolazione, non da chi a Bruxelles ci è arrivato da qualche anno, ma chi a Bruxelles ci vive. E infatti noi vi lasciamo con Fabrizio De André e la PFM che suonano Via del Campo. Ai colori dell'anima, dagli studi di Radio Alma, Angelo, Carla e Giampaolo, contro la crisi e problemi quotidiani che assillano i nostri giorni, sono orgogliosi di presentarvi il momento del saggio. Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici, mi presento, sono il Saggio. Ogni settimana sarò qui per parlare di un tema della vita di tutti i giorni e per darvi un consiglio su come affrontare difficoltà piccole e grandi, vicissitudini e dubbi più o meno esistenziali. Il tema di oggi, come avrete già capito, è il rientro dalle vacanze estive, che porta con sé, come purtroppo cari ascoltatori sapete meglio del Saggio qui presente, un aumento dello stress. Numerosi studi testimoniano questo fenomeno, che ad Oxford chiamerebbero post-holiday stress. Ricerche dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Olanda mostrano come spesso alla ripresa del lavoro si raggiungono gli stessi livelli di stress di prima delle vacanze, senza poi contare l'effetto climatico. Amici ascoltatori e ascoltatrici di lingua italica, non vi svelo niente di nuovo nel dirvi che qua l'inverno fa già capolino, le giornate si accorciano e molti avranno tirato fuori il piumone, se mai l'avessero messo dentro l'armadio. Gli effetti della transizione climatica all'inverno sull'umore vengono chiamati in gergo winter blues, un profondo cambio d'umore che ci può colpire proprio durante questo periodo che porta le giornate più corte. Cosa possiamo fare per affrontare questa delicata fase dell'anno? Alcuni dottori consigliano di prendere medicine o di fare cure come la fototerapia, mentre dei sedicenti maestri orientalizzanti vi orientano verso le loro discipline. Il Saggio vi propone invece un metodo facile ed efficace. Il Marimbarza. Il Marimbarza è una tecnica che nasce tra le montagne tra la Ciuciaria e la pianura pontina, inventato dai pastori che dovevano affrontare la rigidità dell'inverno e da lì diffuso nel mondo. È di facile applicazione. Spingete i muscoli delle guance verso il basso, rilassate le palpebre degli occhi, chiudete la bocca e applicate un leggero molleggiamento del collo mentre esclamate Marimbarza. Il vostro capo vuole fissare una riunione il giorno del rientro? Ditegli schiettamente Marimbarza. Il vostro partner o la vostra coinquilina non puliscono il bagno? Dentro di voi ripetetevi Marimbarza. Piove, fanno 8 gradi a settembre e il commesso vi butta fuori del negozio un quarto d'ora prima della chiusura. A lui l'animascia sua, ditegli forte e chiaro Marimbarza. La vostra squadra perde il derby? Che tocca fa? Marimbarza pure a quello e ripartite con ottimismo. È tutto per la prima puntata con il Saggio, una buona settimana a voi e a presto. Ai colori dell'anima, dagli studi di Radio Alma, Angelo, Carla e Giampaolo, contro la crisi e problemi quotidiani che assillano i nostri giorni, sono stati orgogliosi di presentarvi il momento del Saggio. Colori dell'anima. E siamo di nuovo in studio con i colori dell'anima, siamo a Radio Alma 101.9, un ringraziamento fortissimo al Saggio che ci ha donato veramente un momento di riflessione grande molto saggio, profonda. Il grande Saggio apre una stagione nuova, perché questo è un nuovo anno, è un anno fatto di novità e infatti abbiamo inserito nella nostra trasmissione i colori dell'anima, Angelo e Carla, delle rubriche. La prima che vi abbiamo presentato questa settimana è il momento del Saggio. Colgo l'occasione, prima di introdurre i nostri ospiti, di salutare Rosario e Maria Domenica che ci stanno ascoltando, Martino Valentino ancora che dice forza Radio Alma, Luisa Sessa che ci manda un saluto da Monaco, liebe Grüße aus München, ciao Luisa, ciao e speriamo di vederci prima o poi. Carla, introduciamo finalmente questi ospiti. Cari ascoltatori, sono onoratissima stasera, dopo vari tentativi mal riusciti per vari problemi e tecnici della radio e di qua e di là, finalmente con impazienza attendevamo questo momento, abbiamo qui in studio niente poco di meno che Elena Martino e Michelangelo Capobianco. Benvenuti. Buonasera. Buonasera a voi, benvenuti per questa prima volta in Radio Alma. Sicuramente ce ne saranno seconde, terze, quarte. Innanzitutto grazie di essere venuti. Sappiamo che con una famiglia non è sempre facile organizzarsi e venire qui alle 9 di sera. Grazie quindi, a voi. Quindi veramente grazie. E diciamo ai nostri ascoltatori innanzitutto perché io e Angelo abbiamo veramente aspettato tanto e abbiamo desiderato la vostra presenza. Perché diciamo abbiamo avuto modo di invitare tantissimi altri italiani che si trovavano per un motivo o per un altro qui a Bruxelles per lavoro, stage, eccetera, ma è un po' più raro trovare degli italiani come voi, ma che in realtà sono belgi. In che senso? Che sono nati qua, ma non voglio dire tutto, voglio lasciare, non so, spazio a voi di raccontare un po' questa vostra italianità, dove siete nati, che percorso avete fatto, non so. Io sono nata qui, proprio in Belgio, a Schaerbeek. Quindi Bruxelles. Sì, veramente Bruxelles. Ho fatto tutti gli studi a Bruxelles, a Schaerbeek. Francofoni? Francofoni, sì. Okay. E dunque tutto il percorso scolastico l'ho fatto qui a Bruxelles, dunque io sono proprio, però comunque sono molto molto legata all'Italia, non c'è un anno che passa che non andiamo in Italia, dunque comunque anche se sono nata qui con i genitori abbiamo sempre avuto questa cultura italiana anche a casa, dunque per me, cioè io sono italiana, non sono belga, non mi sento belga per niente, anche se sono nata qui. E i tuoi genitori? I miei genitori invece loro sono nati in Italia, ma si sono conosciuti qui, dunque già è iniziata proprio qui anche quindi è un amore belga. È un amore belga. Michelangelo, la tua storia è un po' più ricca, nel senso che ci sono più spostamenti, più chilometri. Sì. Diciamo, invece Elena ha un amore brussellese dei genitori, nasce lei a Bruxelles. A te c'è qualche chilometro, un po' di benzina in più. Sì, io mi posso considerare un europeo perché i miei genitori dunque sono andati in Germania, io sono nato vicino Frankfurt, poi quando avevo 4 anni siamo venuti in Belgio e qui dunque ho iniziato a fare i miei studi fino a 15 anni. Il quale anno era nell'87, siamo tornati un anno in Italia e lì ho fatto un anno. Non dare questa informazione, la gente capisce quanti anni hai. Vabbè, ma non li faccio. Ma lui che se ne frega, lui è un grande. Ecco, dunque ho fatto un anno di studi in Italia che mi ha arricchito tanto. Poi? Giù nel paese vicino a provincia d'Avellino. Ok. Ho fatto l'ITIS, dunque l'ITIS, l'Istituto Tecnico Industriale Statale, sì, ecco proprio quello. Ho fatto la prima superiore lì. E così dopo un anno non ci siamo trovati bene e siamo tornati di nuovo qui. E proprio quel momento lì, un anno che sono rientrato qui, abbiamo iniziato a frequentare la parrocchia di San Boniface. Ah, certo. E lì dunque, mentre organizzavamo un coro, ho conosciuto Elena in parrocchia. Ok, e allora diciamo, facciamo un piccolo link al presente, che questa chiesa di San Boniface è un luogo di aggregazione pazzesco, perché è il luogo dove dove noi ci siamo conosciuti e dove tra l'altro è nata più o meno febbraio, Angelo correggimi, febbraio. Di quest'anno, del 2012, è nata un'altra corale, una corale formata da gente più o meno fissa qui a Bruxelles, tra cui voi, tra cui anche noi, a Giampaolo, c'è Angelo che dirige questa corale, ed è anche nel vostro caso è stato una boccata d'aria. Sì. È stato già, quindi a quanto ho capito, il posto dove vi siete conosciuti, quindi già come aria. Sì, perché per noi è un posto molto importante, ci siamo conosciute lì e per me continuare ad andare lì e a fare questo coro per noi è una cosa bellissima. Perché dove c'è Dio c'è l'amore. Grazie Michelangelo, grazie di apportare anche questa voce qua, perché a volte manca veramente, grazie di ricordarcelo. E io colgo l'occasione su queste grandissime parole di salutare ancora tantissime persone che ci stanno scrivendo qui sulla nostra pagina Facebook Angelo e Carla. Saluto Elisa Bellone, ancora Raffaella Palombella, a cui è piaciuto tantissimo il commento del saggio, Martino Valentino, pure se siamo nati qui siamo sempre italiani. Un saluto ancora a Maria Domenica Alfieri e a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi questa corale che porta frutti oggi, che li ha portati nel passato e che vi ha portato 3 bellissimi bambini. Sì. Sì, infatti, che dormono, però comunque voglio salutarli, Leana, Matteo e Lorena. Sì, infatti ci siamo conosciuti proprio in quella chiesa, eravamo un bel gruppo di giovani e dunque così ci siamo conosciuti lì e abbiamo fatto questo percorso insieme. Sono nate altre coppie, che voi sappiate? In quel periodo lì no. Sì, qualche tuna non è durata. Sì, dunque... Eh beh, cioè, comunque uno deve, c'è una certa probabilità, insomma, che le cose vadano in buon fine. Voi siete quella percentuale. E che cosa vi sentite? Boh, non so, che è una cosa un po' di un certo peso, però che cosa vi sentite di dire a delle giovani coppie che stanno intraprendendo adesso un percorso serio e buca, a cui potete dare qualche, non insegnamento, semplicemente qualche qualcosa di vissuto? Ma comunque io penso che la cosa molto importante in una coppia è la comunicazione, comunicare veramente, ascoltare l'altro e comunicare. Questo io penso che sono veramente le due cose fondamentali in una coppia. Perché cioè, ti fa andare avanti, ti fa capire tante cose e poi la fede, dunque, e la fiducia in l'altro. Okay. Molta fiducia. Diciamo che l'uno vale l'altro, sì. Poi la comunicazione, tu dici l'ascolto e la comunicazione, però la vera comunicazione sottintende l'ascolto, perché sì. Se comunichi... automaticamente stai anche ascoltando l'altro, ecco. E infatti è proprio comunicando che siamo arrivati ancora ad avere un sacchissimo di messaggi qui sulla nostra pagina Facebook. Scriveteci, continuate a scriverci e se volete inviare un messaggio, un sms 0032 471 40 7804. Se volesse interagire con i nostri ospiti, il nostro numero di telefono è il seguente: 02 345 26 56. E abbiamo capito che Martino Valentino ormai è di parte, perché sta cominciando a mettere mi piace. Ciao Vale, mi strapiace. Elisa Bellone ci scrive: saluto tempestivo, grazie e continuo. Vai, ciao Elisa, prego. E continuando, quindi mettendo sicuramente su un piatto d'argento la vostra famiglia, la vostra coppia, ma ritornando un po' a questo legame con l'Italia, ci piacerebbe sapere un po' come l'avete vissuta questa doppia identità, questo legame, questo vivere in un paese diverso da quello al quale ci si sente attaccati. Ma io penso che la cosa più dura è il fatto che siamo stranieri qui e siamo stranieri anche in Italia. Ah. Comunque, quando arriviamo lì siamo gli stranieri che vengono dal Belgio, e poi quando siamo qui comunque siamo anche stranieri, perché siamo italiani, cioè abbiamo la carta d'identità italiana, dunque quello è forse il punto negativo, perché stranieri qui, stranieri lì. Però comunque alla fine, voglio dire, siamo in Europa, dunque certo. Si vive comunque benissimo la cosa. E come, che effetti ha avuto questa io la chiamo doppia identità, ma sicuramente non è una doppia identità, però questa doppia appartenenza sulla coppia, che effetti ha avuto, se ne ha avuto? Ma no, non penso che, ma comunque penso che non l'abbiamo molto sentita, perché abbiamo tutte e due lo stesso percorso, voglio dire che non siamo nati in Italia, abbiamo dei genitori italiani con la cultura italiana, dunque se avessi conosciuto un belga o una persona di un'altra nazionalità, forse che sarebbe stato diverso, l'avremmo vissuto diversamente. Invece qui penso che il fatto che siamo tutti e due in un percorso più o meno uguale, scusate, penso che si vive forse meglio. Possiamo dire che questa appartenenza comune è stata piuttosto il carburante, o? Sì. Sì, penso che ci ha aiutato tantissimo. Sì. Ok. Michelangelo, ti vedo lì, voi dovreste conoscere Michelangelo, è una persona fantastica, è una persona dolce, simpatica, che mette tutto a proprio agio. Se c'è una persona che è un po' più a disagio attorno a una tavola, lui lo valorizza, sta lì, ci va a parlare. Dai che mi fai arrossire. Infatti non è vero proprio, ma non è vero proprio, è antipaticissimo, è brutto, non invita mai nessuno a casa, non dà mai da bere, niente. Non beve, non mangia. No, astemio, vegetariano. No, vabbè, noi no, non abbiamo nulla in contrario contro i vegetariani, eh. Quindi, insomma, vederlo lì un po' intimidito fa un po' strano, e quindi vorrei dargli un po' la parola e permettergli, insomma, di far beneficiare i nostri ascoltatori della sua simpatia e della sua voce. Vabbè, che posso dire, che è rientro per noi che siamo qui, che viviamo qui. Esatto. Bravo, come bravo. L'hai vissuto sto rientro? Quante cose. Vai, io già lo so. È troppo difficile. No, perché quando si sta giù si sta bene, ma forse si sta bene perché non si lavora e si sta in vacanza. Qui si lavora, dunque il Belgio è il posto del lavoro e giù è il posto delle vacanze. Forse, non lo so, se lavorerei giù, forse che penserei in un'altra maniera. Per me il rientro è sempre difficile, perché penso che devo ritornare, penso al tempo che troverò qui e mi metto un po' d'angoscia. Ma poi qui abbiamo la nostra casa, e allora uno dopo un mese di vacanze gli fa piacere tornare a casa sua, perché come si dice da noi, casa sua agio mio. è vero. E dunque a un certo punto ci manca la casa, le nostre abitudini, che giù non abbiamo. E di solito quanto ci metti poi a carburare e rientrare nel tuo umore normale da bruxellese, diciamo? Vabbè, ci vuole. Dico 3-4 giorni ci vogliono. Ah, vabbè, è poco. Vabbè, ma sono tanti, quanto uno arriva. Dalla Sicilia con furore, un antico ma sempre attuale. No, aspetta, che mi sono imbrogliato. Dalla Sicilia con furore, un antico ma sempre attuale rimedio naturale efficacissimo, il cosiddetto mosto cotto contro il raffreddore. Siete fortissimi, un caloroso saluto, Rosy da Messina. Ciao Rosy, e con Rosy colgo la palla al balzo per salutare anche Frank. Ciao Frank Mastrandrea, che salutiamo calorosamente. Un altro abbraccione va a Domenico Miceli e a Rosario Miceli. Ragazzi, vi portiamo nel cuore. Scusami Michelangelo se ti ho interrotto, ma io ho una domanda. Nella macchina cosa ci hai messo quando sei tornato dall'Italia? Dillo ai nostri amici radioascoltatori, ti prego, dillo. Di tutto e di più. Partiamo dalle bevande. Tu come affronti l'inverno belga? Con che vino? Con un po' di vino delle nostre regioni, dunque un po' di aianico, che qui non si trova. Vabbè, dai, una ventina di bottiglie servono per passare l'inverno. Un po' di olio di oliva, un po' di tutto. Sì, ci vuole. Noi passiamo un c'è un brano da passare, perché Michelangelo piace un brano e noi lo passiamo di sottofondo. Noi continuiamo a parlare, lo passiamo di sottofondo e ci parliamo su e chiediamo a Michelangelo perché ti piace questo brano. C'è un cucino, è il cucino Pio. Michelangelo, cosa suscita in te questo brano? A me suscita l'estate, perché era il tormentone proprio per quest'anno. E si ballava dappertutto, ai matrimoni, nelle serate. Poi ci hai detto che si ballava, facevate il balletto. Sì, proprio i balletti, i gesti. Troppo bello, guarda. Tu l'hai ballato. Sì, al matrimonio di suo fratello. E la faccia di Elena è proprio questa. Sì, l'ho dovuto ballare per forza. Però vedo Michelangelo ormai è partito. Voi non lo vedete, ma balla, salta, danza. Dovremmo avere una webcam, però non ce l'abbiamo. Mi dispiace, lo spettacolo è solo nostro. Il Pulcino Pio, grande tormentone in Italia. Perché si è sposato? Chi si è sposato? Si è sposato mio fratello, che lui è nato qui proprio a Bruxelles e è tornato a vivere in Italia. Ah, mamma mia, beato lui. Beato lui che ha avuto il coraggio di partire. Beato lui. Beh, che dire, io prima di andare verso... Vogliamo fare gli auguri al fratello di Michelangelo? Auguri. A Claudio e Lucia. Auguri. Noi prima di avviarci verso la conclusione, perché sono le 21:49, vi facciamo ascoltare un brano musicale e vi anticipo che ci sarà anche il momento zen. Ecco a voi Honor of a Lonely Heart. I colori dell'anima Buonasera, siamo di nuovo qui su Radio Alma e siamo in collegamento con Liliana, che ci ha chiamato qui qualche istante fa, e veramente ci farebbe piacere averla qui in linea, in collegamento. Liliana, ci senti? Sì, mi sento. Ciao Liliana. Ciao a tutti. Grazie di aver chiamato innanzitutto. Spieghiamo ai nostri ascoltatori qual è la bellissima relazione che ci lega qui tutti e sei. Sì. Con Giampaolo, Angelo, Elena, Michelangelo e te, quindi come membri sempre della chiesa di San Bonifacio. Sì, esatto. Di questa grandissima comunità italiana. Sì, bellissima. ti ringraziamo di averci chiamato, hai un messaggio da passare. Vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualche cosa? Sentiti libera, Liliana. Ma giustamente vorrei un po' parlare di questo, di quello che abbiamo detto prima, e del fatto di essere italiani in Belgio. È veramente una bellissima avventura, anche con qualche difficoltà a volte, ma veramente bella. Questo condivido chiaramente con Michelangelo, Elena, eccetera. Quindi. Grazie mille Liliane. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Diciamo, le persone che ci ascoltano, i radioascoltatori, e anche a voi tutti. Grazie mille Liliane, ti auguriamo un'ottima serata. Grazie dell'incoraggiamento per questa grande avventura che è essere italiani qui a Bruxelles. Grazie per quello che tu fai, sappiamo che hai una parte attiva in questa italianità a Bruxelles. E penso che anche voi. Un bacione, buona serata. Ciao grazie. Liliane, ciao. Ed eccoci qui tornati in studio con questo caro intervento di Liliane. Noi abbiamo proprio al volo il momento del saggio che dovrebbe esserci, sì. Il momento zen, scusate, perché il momento del saggio è già avvenuto, e il momento zen, non so se ve lo ricordate, è un momento che abbiamo già ripercorso durante qui ai Colori dell'Anima con Angelo del Carla. Vediamo un po' se ve lo ricordate, infatti, e vediamo un po' se mi scuserete, ma la telefonata di Liliane mi ha veramente scioccato, mi ha fatto molto molto molto piacere che abbia chiamato. Ecco, il momento zen, eccolo qui. Zen, ci sei? Pronto? Mi sentite? Forte e chiaro. Allora, muoviti che è tardi. Per il momento zen del giorno, proverbio civico: mal comune cambia sindaco. Grazie, questo è stato un momento zen incredibile. Grazie mille, torniamo in studio. Carla! Ma io non lo so, abbiamo il saggio, abbiamo lo zen, abbiamo i sasicci, i kaurasciuri, i molognani. Ma sì, questa è Radio Alma, questi sono i colori dell'anima. È fantastico. Allora, dobbiamo scegliere tutti insieme un colore. Che colore diamo a questa puntata di oggi? Io lo farei scegliere a Michelangelo ed Elena, che dopo, data la loro spiccata comunicazione, decideranno velocemente un colore. Blu come vi comunico che il blu è stato già scelto dalla trasmissione prima di noi, quindi vabbè, della settimana scorsa. Io ce l'ho il colore, è rosso come il vino. Però con qualche piccola insenatura di blu, okay, nel blu, dai, rosso venato blu. Come... rosso venato blu. Ecco. Abbiamo ancora 5 minuti, tantissimo tempo. Elena, com'è stato il tuo ritorno? Abbiamo sentito il ritorno scioccante di Michelangelo, e invece le donne, la donna, la mamma della famiglia, come ha vissuto il ritorno? Ma il ritorno è stato abbastanza, come dire, impegnativo, perché i bambini hanno ripreso la scuola il 3 settembre e noi siamo tornati il 31 agosto, dunque è stato abbastanza... stressante, dunque non abbiamo avuto il tempo, penso, di rimettere elaborare tutto, ecco, e subito abbiamo dovuto iniziare la scuola, il lavoro, dunque è stato un po' caotico. Però vabbè, comunque noi, al contrario di voi, noi abbiamo la famiglia qui, dunque comunque è sempre bello tornare per rivedere anche i genitori, i sorelle, i fratelli, dunque penso che questo è una cosa molto diversa per voi. Sì. E dunque è un po' anche il lato un po' più facile. E i bambini come la vivono tutta questo movimento? Ma i bambini la vivono come una vacanza? Sì, la vivono proprio come una vacanza, e loro alla fine erano anche contenti di tornare, perché volevano tornare a vedere gli amici, volevano riprendere un po' la vita, i loro giochi, la cameretta, ecco. Dunque per loro la vivono proprio come una vacanza, erano contentissimi di andare in Italia e farsi la vacanza lì, però erano anche contenti di tornare. Ecco, quindi è una terza generazione, siamo alla terza. Sì, siamo alla terza, quindi è normale che al terzo grado della catena. Di un altro modo, sì. Certo, beh, normale. Ma comunque loro piacciono andare in Italia, perché se noi chi non piacerebbe, Michelangelo? Noi certe volte diciamo quest'anno non andiamo e iniziano tutti a piangere. Dunque. E dove andresti? Infatti arriva da Facebook l'annuncio che Michelangelo non è timido, e ve lo dice Martino Valentino. E poi ci arriva un altro messaggio al volo: panino, crocchette e panelle? Ragazzi, siete una miniera di entusiasmo da Palermo. Ciao Kumba, Benedetto, ciao Benedetto. Ciao Benedetto. Quindi, e dove andresti in vacanza se non andassi in Italia, se non tornassi in Italia? Da nessuna parte. In punizione. Okay, no. Prima di salutarci, sono ormai rimasti solo 2 minuti 60 secondi per 120. Bravo. Vabbè, io sono musicista, però la matematica 60 più 60 lo so fare. La calcolatrice non, ce l'ha sotto il però cassetto. 60,50 più 60, questo già è difficile. Allora, 2 minuti al termine della trasmissione. Domanda a bruciapelo a Michelangelo: destinazione per l'anno prossimo per le vacanze? La Puglia. Elena. La Puglia. Giustamente, Michelangelo guida la macchina. Carla, destinazione. Destinazione per l'anno prossimo per le vacanze? Oltre al ritorno in Italia, mi farebbe piacere visitare il sud della Spagna. Ah, beh, bellissimo. E voi quali sono le vostre mete? Quali sono le vostre mete future? Parlando adesso, siamo rientrati, però dai, parliamone e vediamoci già nell'estate prossima, a Natale, a Pasqua, sì, il che Ponte dei Santi, ma che ce ne frega. Sono rimasti pochissimo tempo, noi vi salutiamo, vi diamo un abbraccione, vi diamo appuntamento ogni lunedì con i colori dell'anima qui su Radio Alma, e con Angelo e Carla l'ultimo lunedì del mese, quindi per il prossimo mese avremo 2 interventi, quindi ci vedremo lunedì, e non mi ricordo qual è il lunedì, però l'ultimo lunedì del mese di ottobre, che è 29, ma anche il 22, e anche il 22, 22 e 29 ottobre. Noi vi lasciamo, ciao Michelangelo, ciao, grazie mille, i colori dell'anima su Radio Alma.